בלו טיים. בלו טיים. בלו טיים. Sono le 21 di qui a Blu Radio Veneto, ma anche in tutta Italia, Maurizio, no? Indubbiamente. Buonasera a tutti, buonasera da Maurizio Calzavar e da Gilles Facchinelli. Sì, siamo in tutta Italia, sono le 20:50, non ancora 21. Sei proprio pignolo. Pignolo, un orario svizzero. Buonasera a tutti, in ogni caso. Ciao Maurizio e benvenuti a tutti voi qui al Blu Radio Veneto. Allora, Maurizio, questa sera rimaniamo nel Veneto, precisamente a Verona, e parliamo con Nicola Battisti. Ciao Nicola. Ciao a tutti. Buonasera Nicola. Buonasera a voi. Sei veneto, sì, di Verona, cioè abiti a Verona, ma sei un cittadino del mondo. Sì, mi piace definirmi così, hai detto proprio la parola giusta. Cittadino del mondo, per cari ascoltatori, lui è stato a Londra, è stato a Parigi, è stato a Filadelfia, è stato a Palma di Mallorca, insomma, è girato tra Europa e anche gli Stati Uniti. Sì, ho avuto questa intuizione, questa fortuna, che mi ha portato alcuni anni fa a vedere tutte queste esperienze, vivere queste città. E, sì, siamo figli del mondo, cioè prima di partire l'intuizione che avevo era proprio quella di come un topo dentro una scatola. Il topo cosa fa? Cerca tutti cerca gli angoli. Cerca di scappare. E cerca di scappare, cerca di capire come sono gli angoli, cerca di il criceto, no? Cerca di capire come sono. E quindi io pensavo alla mia vita, al mondo. Cosa ci facevo solo a Verona? Quante città, quante persone da vedere e conoscere. Verona Beat, ti ricordi Verona Beat? Sì, Verona sì, Beat, sì. Tutti se le ricordano per i quattro scalmanati comici, ma non erano solo così, avevano scritto anche Verona Beat. Sì. I gatti di Vicolo Miracoli. Sì. Quindi Verona Beat era... Perché anche Verona c'era il Beat, chiaramente. È stato un momento che tuttora si ricorda, Verona, sì. Perché poi tra le tante cose non è che sia nato moltissimissima. No, però qualcosa è nato. No, certo che è nato. Però quello è stato forse il momento importante per Verona. Cosa hai scoperto a Londra, a Parigi, a Palma di Mallorca, a Filadelfia, musicalmente, oltre umanamente chiaramente, ma musicalmente, cosa tutto, hai scoperto? Tutto, troppe cose, perché avere a che fare con americani, con brasiliani, con portoghesi, spagnoli, ovviamente si ha anche tutto il bagaglio culturale, e il bagaglio culturale è molto grande all'estero, nel mondo, quindi ho conosciuto tutto, dai Beatles, ma proprio le discografie complete, album dopo album. E quello si deve fare. Sì. Vero Gil, cosa dici? Per capire un artista, se si può, bisognerebbe indagare in tutta la discografia dell'artista. Certo. Esatto, ti stavo dicendo, io ho una sofferenza perché non ti vedo. sì, perché cari ascoltatori, voi non lo sapete, io sono abituato a nascondermi nell'angolino, ma Gil mi deve vedere. No, io ho bisogno di vederti, Maurizio, bisogna vederti. Tra l'altro, visto che si parlava di questo argomento, la scuola Mogol, ma non solo, per carità, dice che bisogna cercare di studiare, di essere curiosi, di andare a scoprire cose nuove. Quello che in pratica tu hai fatto, Nicola, che tra l'altro c'è questa anche una curiosità. Tu proprio le tue prime canzoni in pratica le hai fatte a Londra, non in Italia. Esattamente. Cioè, il coraggio è partito là, perché se era per i miei quattro amici che mi circondavano, la quale cultura musicale era insomma di un livello abbastanza mediocre, insomma io non riuscivo a avere riferimenti su di loro, anzi c'era a 16 anni, quando, perché io scrivo da quando ho 13 anni e scrivo canzoni mie, però l'espressione poi con gli amici, il poter riuscire a suonarle, questo era impossibile, anzi era un prendersi, mi prendevano in giro. Ma gli altri io... erano musicisti? No, non erano musicisti, ma non è che ce ne siano tanti. No, ce ne sono non pochi. È facile riuscire a venire a contatto a 13 anni con altri musicisti. No, o assolutamente altri. No. Quindi, e poi anche con la profondità della scrittura, cioè non dico che mi prendevano per pazzo, ma poco ci mancava. Chi pensi di essere, cosa pensi di fare? E invece sono sempre stato un grande sognatore. E quindi è stata Londra che mi ha dato la possibilità di capire. Già dopo le prime sere che passavo in ostello, prendevo la chitarra, perché ancora non avevo la chitarra, non me l'ero portata, prendevo qualche chitarra che girava, e mi ricordo con questa cricca di francesi che prendo la chitarra, faccio un paio di pezzi e poi loro cominciano ad arrangiarmi, ad arrangiare i pezzi, a fare i cori, a farmi complimenti, e da lì è nata questo intuito, questa voglia: ce la posso fare, e anzi devo farlo. Uh-huh. La gente lo vuole, e sono stati loro che mi hanno chiesto, e da lì che, certo, che ho preso il coraggio, ho detto: sai che c'è, io devo scrivere canzoni, questa è la mia vita, se piace lo faccio. Quindi è vero che all'estero, in pratica, per chi fa musica è stimolante, soprattutto ad esempio vedo che hai parlato di Parigi poco tempo fa, abbiamo avuto anche Grazia Cinquetti come ospite, che lei ha detto: io vado a, tra virgolette, emigrare a Parigi perché lì cerco un qualcosa di più, perché là soprattutto la musica indipendente ha un suo valore, è valorizzata e ti dà modo di esprimerti. Beh, Parigi poi a livello artistico, per chiunque fa arte, è la città, ed è quasi indescrivibile la sensazione. Si ha proprio un valore aggiunto, e vuoi la storia, vuoi chi vive poi le grandi metropoli, perché poi sono dei porti, dei porti viventi: Londra, Parigi, New York, Berlino, Barcellona, sono dei porti dove ci vanno. Chiunque incontri ha una storia. La prima domanda che ti fai è: a Londra? Come mai? Cosa fai qui? E quindi molto spesso si entra direttamente nell'espressione, nell'animo delle persone. Ecco che poi anche a livello musicale, come a livello cinematografico, piuttosto che di moda, però insomma di arte, di c'è molto meno appariscenza, molto più soul, molto più sì senz'altro, questa è una cosa fondamentale. Cosa dici, Gil? Apriamo la finestra, sentiamo il primo pezzo che abbiamo scelto da scaletta. Certo, io avrei però una curiosità. Dimmi, sai, vai. Come sono, Maurizio? So, è vero. Finché fiato avrò è stato in pratica il tuo singolo, se non sbaglio, esatto. È una canzone, come tutte le tue, dopo ne parleremo anche con Maurizio, particolare, e anche il video. Sì, autoprodotto totalmente. Che poi parleremo anche di questo, è un video particolare, non capisco se ti sei autoripreso. Sì, tutto da solo, ecco, fatto e detto da solo, anzi vabbè, dopo ti spiegherò meglio. Ecco, poi, però due parole su questa canzone e poi partiamo con il brano. Beh, racchiude un po' tutta questa, l'energia iniziale con la quale sono partito. E questa voglia di cercare di vivere finché il cuore batte, al di là dei concetti, dei pensieri altrui, e finché avrò cuore camminerò e andrò, quindi per la voglia di vivere, ecco, per la voglia di fare, non mi posso fermare. Ecco, è una canzone sicuramente positiva, visto anche i periodi che si vivono. Sì. Va bene, credo in questo. Allora ascoltiamoci Nicola Battisti. Ho voglia di lasciare tutto, dimenticare per non soffrire. Ho voglia di cambiare tutto, fare quello che mi va, e poi chissà, già, poi chissà, già, poi chissà, già, poi chissà. Camminerò verso strade che non so, per perdermi come un ubriacone che non sa che fare. Che lasciarsi andare, perché restare vuole dire morire un po', invece io voglio scoprire dove io voglio morire. Non posso rinunciare alla voglia che ho, no no no, le gambe ho, le gambe ho. Camminerò finché ho piatto, poi andrò, Radio Veneto. SMS 346 23 20 033. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Torno in diretta con Blue Radio Veneto e Nicola Battisti. Maurizio, io ho trovato delle parole che secondo me vanno ad hoc per Nicola. Voce potente e alternata. Cosa dici, Maurizio? Sì, voce potente e alternata, ma anche voce che sa gestire i pezzi. Possiamo dire che questo è un pezzo pop, possiamo dire così, Nicola. Un pezzo pop con un inizio abbastanza brasiliano, ritmato. Come mai questo caraibico che si annuncia e poi sparisce? Ma è l'intro che è caraibico, questo movimento. Certo, ma per me la musica... Piccolo movimento, no? Certo. Pesante, certo. Ma appena accennato, ma questo movimento, questo muoversi, questo invogliare la gente a muoversi. Certo. Beh, sì, il soul, il funk, questo il beat che si muove dentro è proprio fa parte di me. Assolutamente il tuo DNA. Sì, mi piace tantissimo il ritmo e non so proprio spiegare perché, forse un domani riuscirò a capirlo. Per me la musica è tutto, nel senso che sono un amante della musica a 360 gradi, quindi non ho anche nei miei pezzi e nell'ascolto del disco, in molti poi... appunto mi l'hanno criticato con questa cosa, cioè ci sono tantissime sonorità, è un disco molto molto vario, sì, decisamente pezzo, Mario. Però è vario, è perché per me la musica è tutto, cioè ci può essere di tutto, ovviamente stando sul mio genere mi piace molto l'acustico, quindi la purezza del suono, e quindi sì, insomma, certo mi metto col distorsore a fare pezzi o soli incredibili, però diciamo che sì, quello è il mio canale. Cari ascoltatori, una cosa che ho ben apprezzato da Nicola, che lui ha scelto volutamente tutti gli strumenti vintage. Sì. E questa è una cosa molto importante. Io ho una certa età, amo molto gli strumenti vintage. Quindi Mellotron, quindi Hammond, quindi la batteria Ludwig, cioè tutte le cose che si facevano una volta, con cui si suonava, e si suona tuttora, per carità. Certo. Però questo ritorno al passato, ma in senso positivo, perché il vintage non è un passato che non si... che si deve dimenticare, assolutamente. Lo strumento vintage ha un'anima, da qualcosa, secondo me, più di quegli elettronici di adesso, o quelli, certo, giocati adesso, perché ci sono dei giochi in sala di registrazione che sfruttano determinati accorgimenti. Certo, ma infatti io, beh, qua dopo se ti potremmo stare qua a fare una puntata solo su questa cosa qua, e la differenza tra l'analogico e il digitale è totale. L'analogico è una forma d'onda, è un disegno, sia nella fotografia che nella musica, è tangibile questa cosa. I beat che creano a livello digitale una musica sono pur sempre, restano beat, sono degli scalini. E a livello acustico, invece a livello analogico, non lo è proprio un disegno che si fa su una bobina. È difficile, che se si sbaglia nell'analogico, certo, si sbaglia. È certo, ma anche comunque anche quella rarefazione lì, quella verità lì, non lo so, è proprio fondamentale per me. Quindi sono un amante del vintage, c'è poco da fare, questa è stata la scelta, poi anche riflessa poi sul mio stile di musicale, insomma, la scelta più azzeccata, ecco. Ecco, poi del vintage, cari ascoltatori, lui ha portato una chitarra. Bravo. Dici, una chitarra, chiaro, una chitarra, ma è una chitarra particolare, la vintage. Tua prima chitarra. No, sì, allora questa chitarra qua è una replica vintage della che continuano a fare tuttora i ragazzi giù alla Gibson. Ed è Gibson. È una Hummingbird e sì, questa è una chitarra storica che continua anche le tecniche con cui si fa tuttora. Sono tecniche di invecchiamento dei legni per cercare di portare quel tipo di suono. La chitarra fatta a mano è un'altra cosa. C'è il mio cuore, sì, perché qui c'è la decisione di dare a Cesare quel che è di Cesare, è un regalo che mi sono fatto. E quindi c'è poco da fare. E poi è anche visivamente molto bella, perché bisogna sottolineare una cosa: un musicista e la chitarra è un connubio fortissimo, chitarra e musicista. Sì, sì. È fondamentale. La chitarra non deve essere mai lasciata da una parte, deve essere sempre vicina al musicista quando è possibile. Sì, perché sì, così è sempre rimasto così. Guarda, dicevo anche prima, per me è quasi tra la non so se tra una donna, una macchina, a volte sì, la guardo, sembra una Ferrari, io dico, ma sei un bolide, è incredibile, cioè, il suono che può sprigionare, poi appunto che si alterna, si sintonizza col mio, con la mia anima, col mio soul, quindi anche solo una pennata, tornando a casa da lavoro, è una delle cose più belle e più piene per me, quindi sì. Anche per noi, quando lo sì, sentiamo. Cosa sì, dici, sì, Gil? Lo facciamo suonare, sì. Sì, direi che è ora di fare ascoltare ora, anche, abbiamo parlato della sua chitarra, facciamo ascoltare anche questa chitarra. Sei pronto, Nicola? Sono prontissimo. Sento che non passerà mai più il desiderio di vivere con te. Sento che ricordo sempre più dolore al pensiero di una vita senza dolce sposa. Dove sei finita? Io ti volevo così tanto, ma ti ho perso in un momento. I fiori nella notte si chiudono come me, hanno paura e serve della luce e del calore per vedere il colore del fiore. Amore mio, quanti sbagli che ho fatto io, ma nell'amore serve luce e calore. Sento che non passerà mai più, sento che ti penso così tanto. Mamma, quanto amore voglio dare, mamma, quanto amore è rimasto dentro il cuore. Dolce sposa, dove sei finita? Volevo darti una carezza invece di uno schiaffo in faccia. Amore, chiedo scusa e perdono, non era un uomo. Per crescere ci vuole tempo, e forse il tempo adesso non è più. Amore mio, quanti sbagli che ho fatto io, oh, oh, ma nell'amore serve luce e calore, serve luce e calore. Radio Veneto. SMS 346 2320 033. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blue Radio Veneto con voi, carissimi ascoltatori, Gil Facchinelli alla regia, ma la conduzione grandissima del nostro Maurizio Calzavara. Ospite con noi questa sera il veronese Nicola Battisti. Cittadino del mondo. Per presentare il suo lavoro, primo album, giusto? Sì, sì, sì. Che porta il tuo stesso nome e cognome. Semplicemente Nicola Battisti, sì. Maurizio, a te la parola. Innanzitutto, Nicola, diciamo che pezzo hai suonato adesso. Allora, il pezzo si intitolava Luce e Calore ed è, diciamo, un pezzo a me molto caro, perché appunto nell'amore serve luce e calore. Io vengo da una storia che mi ha visto sposarmi con una ragazza americana, durante tutti questi viaggi, e penso che quello che sia mancato appunto sia stata luce e calore, che è sinonimo per me dell'amore. Quindi canto quello che ho nel cuore, e questo è quello che penso che forse a me è mancato. Nell'amore serve luce e calore, serve verità, serve la purezza. Senza di queste cose non si fa niente. Anche su questo ritmo l'hai un po' giocato sul movimentato. Era, cioè, musicalmente qua, essendo chitarra e voce, rispetto al disco è leggermente modificato e deve essere così, chiaramente. E l'hai giocato però su un ritmo abbastanza veloce, almeno all'inizio, poi no, poi le cose si sono acquietate, ma all'inizio era un po' sostenuto, veloce. Sì, luce e calore. Calore, sì. Da questo forse. Sì, sì. Luce, sì. Un po' meno, da un po' romanticismo, quindi un po' melanconia. Sì, si possono vedere anche sotto questo punto di vista. Sì, serve giocare con le dinamiche anche quando tecnicamente, quando si è con voce e chitarra, quindi e quindi sì, e comunque sì, ci sono delle serve giocare con le dinamiche, ecco. Come giochi con le dinamiche? Le dinamiche sono le dinamiche, partono dal cuore, nascono dal cuore. E quindi sì, sì, mi soffermo a pensare anch'io che nell'amore serve luce e calore. E poi un urlo di felicità e di ma anche di tristezza, perché poi per me questo è l'amore. Non c'è solo una cosa o solo l'altra. E come l'hai impostato musicalmente il pezzo? Il testo abbiamo capito, l'hai spiegato benissimo qualche minuto fa. E musicalmente come l'hai inventato il pezzo? Come ti è partita l'idea di costruirlo così? Guarda, certe cose mi nascono proprio, non lo so neanche io da dove. Sto scrivendo un pezzo in questi giorni, penso che appunto, sempre per chitarra e voce lo scrivi? Sempre sì, nasce chitarra e voce. Poi la mia maniera di scrivere mi porta poi a andare verso il ritmo, quindi per rendere grazia e per rendere, insomma, più che per rendere grazia, per rendere più per dare, insomma, anche qui a Cesare qualche di Cesare, un bel basso sotto, una bella batteria. Quindi perché nascono dentro di me, ma poi appunto hanno bisogno di qualche cosa. Diciamo che poi il mio sogno totale, forse. Ma magari, tu sei uomo da band, allora? E più che da band, io sono uomo da soul power. Io vorrei anche solo delle coriste. Io vedo anche solo coristi alla Platters. E non dico ai. Com'era quella band che suonava anni fa, Neri per caso? Sì. Suonavano solo cappella. Solo suonavano cappella. Io vedo nelle ci sono, a parte che questa visione è una visione che io avevo ancora anni fa, che adesso si è rivelata a livello indipendente americano e mondiale la strada da prendere, perché Fleet Foxes, perché Bon Iver, perché sì, ma Fleet Foxes e Bon Iver si sono d'accordo, però è il cosiddetto indie, il folk indie americano. Folk indie, e questo io sono totalmente attratto da questo. Ascolto tantissimo folk indie perché c'è di tutto, certo. Perché c'è di tutto, è un mix, c'è una libertà americana che gli permette di una volta li chiamavi nuovi tradizionalisti, poi è cambiato il discorso, folk, sì. Soprattutto grazie a Fleet Foxes e Bon Iver, che ha un po' diminuito il discorso del nuovo tradizionalista, però è un folk più ricercato, anche se molto, molto scheletico, almeno nel primo disco di Bon Iver, poi quello diverso nel secondo, ma il primo era proprio scheletico, fatto in una capanna in mezzo ai monti, chiaramente. Sì. Sì, quindi dove eravamo noi? Stavamo dicendo del pezzo di luce, del discorso del folk indie, quindi indie. Che sì. Tu ami particolarmente questo genere. Sì, le voci per voci, me. Le voci, per le caso. Voci per me, il coro, da dove nasco poi. Tu nasci dal soul, dal rhythm and blues, esatto, dalla musica degli anni 50-60. Esatto, per me racchiude tutto, l'energia e la che si può sprigionare quando tre persone cantano insieme un ritornello, non c'è pad che tiene, secondo me. Non ci può essere uno strumento che tiene, perché poi è proprio un sommarsi di voci, di frequenze che creano, anche a livello, soprattutto per chi le suona, una goduria che è quasi come, faccio riferimento a Yoga Kundalini, dove si fanno dei mantra ripetitivi, dove si entra in una risonanza particolare. E quella risonanza lì, secondo me, è proprio tantrica, quindi quella è la mia, una cosa che amo particolarmente, tanto è vero che quando scrivo i pezzi li arrangio tutti con 3-4 voci, sempre fatte da me, perché proprio lì riescono a prendere la visione generale. Ecco. quindi sì, non siamo ancora un po', forse un po' per una cosa così in Italia, non lo so, è un po' più difficile, diciamo che la scelta, per esempio tu hai parlato i Neri per Caso, sì. sono bravi, Gilli, siamo d'accordo, sì. Però non hanno, dopo il primo album hanno un po' avuto difficoltà, perché in Italia attacchisce poco il discorso, penso sia difficile che in Italia entri, sì. Forse è bello ad ascoltare un po' di volte, però poi una cosa cantata a cappella, la tendenza un po' di, manca sempre qualcosa, non hanno la cultura fine. Come in America, noi non abbiamo la cultura dei Manhattan Transfer, quindi dei grandi gruppi vocali, in America ormai da sempre, anche in Inghilterra, ma in America più che in Inghilterra, sì, in America hanno questa cultura, noi no, noi stiamo cominciando, i Neri per Caso sono stati i primi che hanno un po' rotto essere isolati, certo, sono certo. stati i primi in assoluto, certo, loro sì. Loro sì, però appunto come dicevate voi si sono proprio poi appunto anche un po' isolati in quel mondo, e che li ha resi un po' così, è brutto dire la parola ripetitivi, è brutta. Sì, è un po' brutta dire ripetitivi, in realtà forse forse mancano più che altro di... hanno qualcosa. Perso quella linfa forse che avevano, sì. all'inizio è difficile, è molto sì. difficile fare un disco solo a cappella, è molto complesso, certo, molto... Io certo. penso che la cosa corretta sia quella che hai detto tu prima, probabilmente noi manchiamo di cultura, sì, esattamente su questo campo sono d'accordo. Nicola, cioè tu sei quindi autore, musicista, compositore, sì. lo fai solo per te o hai già iniziato a farlo anche per qualcun altro? No, diciamo che lo faccio per me. Poi mi è capitato di poter partecipare ad altri progetti, e, anzi uno in particolare diretto da Francesco Morello, che saluto se l'ascolto, e lui aveva fatto un progetto molto interessante dove 7 musicisti diversi che non si conoscevano hanno portato avanti un disco suonando delle parti, per esempio a me è stato presentato, le tracce sono state presentate basso, batteria e un titolo. E possibilità di spaziare. Tu l'hai musicato questo pezzo? L'ho musicato, sì, in una piccola pratica. Un canto, è un pezzo da cercare anche su internet per chi volesse ascoltare, che è un po' curioso. E Incanto, Francesco Morello, un bel pezzo. E sì, attualmente per me, ripeto, è una cosa molto intima la scrittura, quindi le mie canzoni nascono dal cuore, non credo che riuscirei a scrivere a comando per una cosa che non mi interessa, nel senso che deve essere per forza una cosa che io ho vissuto e che vivo, perché è un bisogno il mio chiudere gli occhi e cantare, e quindi musicare i pezzi, è proprio un bisogno, è nato proprio da lì. Io mi ricordo che ancora all'epoca, a 13 anni, frequentavo una psicologa e mia madre mi accompagnava tutte le sere. E una sera chiesi a mia madre: mamma, io voglio una chitarra, perché io voglio suonare la chitarra per gli amici, e non falò, e voglio cantare le canzoni dei Beatles, io avevo questo bisogno. E dietro, e poi adesso vado anche un po' profondo, ma io non ho peli sulla lingua, e dietro c'è questo bisogno, io ho bisogno di essere amato, e ho bisogno di dire le cose che ho dentro, perché dentro mi fanno male. Credo che tutti abbiano questo bisogno, e il mondo sarebbe fantastico se tutti in qualche maniera nella sua corda, nella cosa che loro amano, che può essere musica, può essere arte, fotografia, qualsiasi cosa. Sì, io sento questo gran bisogno, non c'è poco da fare. Quindi. Posso fare ascoltare di sottofondo Incanto? Volentieri, volentieri. Maurizio? Sì, dunque, leggendo nelle note, ho visto che la realizzazione del disco è stata fatta anche grazie a un cantautore, John Mario. Sì. E poi a produzione di musicisti sono Carlo e Andrea Podighe. Podighe, sì. Podighe. Sì. Questa collaborazione con il cantautore John Mario, perché, Nicola? Ma diciamo che lui è stato la prima persona. Io ho fatto 5 anni in giro per il mondo. Mm. Era un basker anche te? Era un basker, davi in giro a suonare per le piazze. Mi è capitato anche. Ho vissuto la vita, ho fatto tantissimi, tantissimi lavori. E non ho vissuto di musica. A Parigi ho vissuto di musica, sono riuscito a vivere per un periodo di musica. Ma si vive a Parigi di musica? Si può vivere di musica. Si può vivere. Se si ha un'idea buona, appunto. Se si ha... All'epoca io suonavo con Raffaele Cucco in Artificial, adesso Small Prey Duo. Vive a Berlino un ragazzo che è fantastico, con il quale ci siamo trovati e ci siamo scambiati cantautore anche lui sardo, lui cantava in inglese, scriveva in inglese, e ci siamo incontrati, ci siamo scambiati, diciamo, sei pezzi lui, sei pezzi io arrangiavo i suoi, lui arrangiava i miei, io corizzavo i suoi, lui corizzava i miei. Eravamo questi due ceffi che con due chitarre giravamo per Londra e ci stavamo tirando fuori il nostro spazietto, quindi però, è stato molto molto interessante, molto bello. C'è un po' più spazio, poi ovviamente il commercio quello che è, le difficoltà sono quelle che sono, però possibilità di suonare in open mic con Devendra Banhart, che è lì che ti guarda tra il pubblico perché ha fatto un concerto a Parigi, questa è la realtà. Hai suonato con lui, cioè questa hai avuto la possibilità di suonare con lui. Frequentavo questo locale Popin a Parigi, dove parecchie persone venivano, facevano i live a Parigi, poi per curiosità venivano lì, anche perché sono fonti di ispirazioni grandissime questi locali, perché si dà tempo a questa formula, la formula open mic, chi voleva poteva andare dalle 8 alle 8 e mezza e iscriversi, aveva possibilità di fare tre pezzi. Ma e il locale si riempiva di una roba incredibile. Certo, si faceva vedere. E si faceva sentire soprattutto. Ma poi c'era di tutto, da chi scherzava e faceva solo una canzone politica, piuttosto che uno che sperimentava con degli oggetti, il frullatore, piuttosto che chi faceva invece pezzi, chi si faceva vedere, perché poi c'erano anche appunto artisti anche internazionali che approfittavano di questi spazi per suonare, per farsi vedere, perché poi se la musica la fai nel cuore, è la vita. Cioè, io mi ricordo quando giravo a Londra, a Parigi, la chitarra alle spalle, parchi, ogni momento era buono per suonare, per incontrare qualcuno, era magico. Bello, Maurizio, ci trasferiamo a Parigi, certo, e ritorniamo nella musica. Perché Parigi? Perché è il prossimo brano che ascolteremo da CD e poi ritorneremo in studio. Nicola Battisti. E sensazioni che ho avuto in te, splendida. Non hai ragione, il grigio è il colore verità, e tu lo sai che tra bianco e nero sei. Nelle cose che oggi dico, nei pensieri che adesso faccio, ci sei tu, dipinta nei quadri, vita sui muri, riflessa nei vetri, e ora sulle pareti, quante facce hai, quante persone sei, tu sei, tu solo lo sei. Ogni istante no, ogni spazio eri attorno, stringevi me dentro. Metafora di pensiero, quando guardo verso il cielo, tu sei, se vuoi ci sposiamo, lo sai che ti amo. Sono sicuro, adesso lo giuro. Parigi, Parigi, Parigi. SMS 346 23 20 033. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Eccoci Maurizio, io penso che come al solito vorrei entrare nel tecnico di questa canzone e poi farò io una domanda a Nicola. Sì, vorrei solo dire a Nicola che secondo me Nicola in musica ha dato l'aspetto dei colori dei bistrò parigini, tutti quei grandi colori che ci sono a Parigi, tutte quelle varietà musicali che ci sono a Parigi, secondo me hai condensato in una ballad, perché fa fondamentalmente una ballad, secondo me questo pezzo, tutti quei colori che tu hai assorbito in questa sì. città incredibile che è Parigi. Infatti questa canzone appunto nasce da spezzoni di video, da fotografie che nel lasso di tempo tra Parigi e America mi ritrovai a casa e sì, guardando le foto, ripensando a Parigi dopo 2 anni di vita vissuta a Parigi, questo pezzo mi è venuto proprio fuori dal cuore proprio. E sì, c'è poco da dire. Pezzo... Se vuoi ci sposiamo, lo sai che ti amo. È un pezzo musicalmente, adesso ci spiegherai un altro versante il pezzo. È un pezzo che racchiude tanti momenti sonori, anche se non sembrano tutti collegati da una ballad, ma ci sono tanti riferimenti in finale che non è una cosa da bistrò, cioè quasi da tango argentino il finale. Sì, sì, sì, sì. Beh, ma comunque appunto Parigi, il tango... È sempre stato, diciamo, molto... Ci sono delle grandi scuole di tango a Parigi, si balla di fianco alla Senna, ci sono dei posti vicino ai giardini, adesso non mi ricordo, ai giardini botanici, ci sono delle... come delle scalinate dove si aprono questi anfiteatri e dove d'estate la sera i parigini e gli stranieri si trovano. E in una piazza fanno cabaret, in un'altra piazza fanno ballo, tango, in un'altra piazza fanno musica dal vivo. Insomma, c'è una vita fantastica, ecco. Senti Nicola, riprendendo un pochino, sempre questo piccolo problema, tanto studio, tanto lavoro, però è sempre difficile promuoversi. È difficilissimo promuoversi, è un lavoro a tutti gli effetti. Ed è un lavoro che richiederebbe tantissimo tempo libero, c'è poco da fare, perché ma è giusto, ma io credo che sia anche giusto così, è giusto che una persona sia anche designer del sito internet, delle fotografie, del capire come funziona la comunicazione, Facebook, non Facebook, promuoversi, cercare le date, bisogna essere anche un po' però supportati, anche nel mio caso, perché io sono il primo timidone, parto timido, insomma, con una grande necessità di esprimermi, però appunto nasco che se non fosse stato per Londra non avrei mai preso in mano la chitarra per dire sì, io lo faccio. Qui a Verona è stata la volta, per esempio, di, si diceva prima, di Mario Valenari, nato John Mario, che con questa idea bizzarra che nessuno può fermare, che è Cabezon Records, una label, etichetta indipendente di Verona, decise di investire sul mio progetto, su Nicola Battisti, esattamente. Sul mio progetto, e quindi sì, ci serve un po' di tutto, poi però serve tanta energia, perché il mondo, quello che ho imparato, non ti dà niente, e c'è tutto, bisogna cercarlo, c'è qualsiasi cosa, i sogni sono veramente possibili. Qualsiasi tipo di sogno, il bisogno aguzza l'ingegno. Questo l'ho imparato da un grande sardo, un cameriere di Londra, che mi diceva sempre questa cosa: io il bisogno aguzza l'ingegno. Ed è vero, tu non devi imparare una lingua? Vai in una città, trovati un appartamento, trovati un lavoro, la imparerai. E in breve tempo è anche bene. Quindi è così come questa cosa, poi cioè come la lingua, poi anche suonare la chitarra, il fare fotografie, tutto insomma, certo. Promozione. E a proposito di promozione, il 6 luglio tu a Verona hai partecipato con altri a un festival, sì. Te lo chiediamo perché anche noi siamo curiosi di sapere questo festival delle etichette indipendenti, sì. Correggimi se sbaglio. Etichette indipendenti italiane proprio, questa associazione Rocken, diciamo, si sta prodigando molto nel far sentire la musica a Verona. È già il terzo anno, mi sembra, che viene fatta a Verona, e quest'anno tra l'altro c'era anche Fortitude Records, un'etichetta di Roma molto, molto importante, con Colapesce. Ah sì, con la Pesce, un musicista che sta emergente di grande valore, ha preso il premio del Mucchio l'anno scorso, quindi sì, sì, Enrico Selvaggio, sì. Un premio molto importante per gli artisti emergenti. Sì, sì, e quindi è stato scusate, molto bello partecipare, essere sul palco e partecipare a questo evento. Fa bene e fa tanto piacere, e sono le cose che servono, ecco. Certo. E visto che noi abbiamo anche tanti musicisti che ascoltano anche il nostro programma, cioè, uno che volesse partecipare, cioè, c'è la possibilità di partecipare a questo evento? Assolutamente, prendendosi ovviamente per tempo, insomma, poi la partecipazione è totalmente possibile. Ovviamente in quel caso lì era legata all'etichetta, quindi se l'etichetta partecipava poteva avere portare un permesso di portare un musicista, ecco. E sempre che abbia Sun Records, è anche stata presente al Miami, al Festival delle Etichette Indipendenti di Milano. Mm-hmm. E anche lì è possibile. Bisogna però le cose darsi da fare, cioè sì. Aprire un'etichetta e dire io sono un amante della musica, voglio vivere di questo, comunque voglio provare, o comunque voglio farlo per il bene della musica, o per la mia vita, per dare un senso alla mia vita, beh, tutto è possibile. Mario si è costruito tutto da niente e sta imparando tutto da niente, con gli sbagli, con i vari pugni in bocca, però se vuoi arrivarci, devi assaggiare, devi capire, certo, quali sono gli errori. Certo. Quindi ragazzi, cioè, c'è poco da fare. Bello parlare con Nicola. E Verona come ha risposto a questo evento? Abbastanza bene, dai, diciamo che sì, purtroppo poi dicevamo come prima, non c'è questa grandissima cultura, non c'è questa... Perché però... non c'è la cultura della musica dal vivo, di inediti, quello è il problema. Sì, sì. Nasce sempre, sì, da quello. Ci sono, sì, tante tribute band. Si rischia, si dà poco... Io c'ho niente con le tribute band, no, però stanno praticamente mettendo in un ghetto i musicisti indipendenti in questo modo. Ma guarda, è anche tecnico, cioè ho partecipato anche a selezioni di Sanremo e abbiamo fatto quattro giorni di dibattiti con personaggi della musica. Tra l'altro mi raccontavano a livello radiofonico che i pezzi nuovi rispetto alle vecchie hit hanno un picco verso il basso incredibile. A livello tecnico proprio, ma non solo a livello il radiofonico, è anche a livello mediatico e televisivo che si hanno queste cose, insomma, proponendo un grande film si hanno grandi ascolti, però facendo così non si fa nascere la musica, signori, siamo sempre quindi, lo so, quindi, che è bello ripetere, non so, fiori rosa, fiori di pesco 30.000 volte, però, un capolavoro assoluto, però fatto una cosa fatta da Battisti, Lucio, un'altra cosa fatto da tanti altri battisti che non sono Lucio, certo, e bisogna però comunque qualcosa piano piano c'è anche Verona, la voglia di sedersi in un campo e di ascoltare della buona musica, cioè, come anche altri sto sentendo in giro, diciamo, ci sono anche altre cose, c'è un'associazione che sta presentando dei film all'aperto, quella è anche un'altra cosa importante che serve, insomma. L'arte deve essere vissuta allo stato brado, ecco, quindi deve esserci la voglia da parte della gente di, anche perché no, mettersi per terra e ascoltare qualcuno che non si conosce. Una volta si faceva così, molti anni fa, quando io ero giovane, caro Gil, io ricordo che tanti anni fa sono andato, quando passavo per Roma, andavo spesso e volentieri a Roma, e ricordo di aver visto Easy Rider, vi ricordate Easy Rider, il mitico film americano, eravamo tutti seduti per terra al cinema, perché una volta si usava così, seduti per terra e tutti a vedere Easy Rider, che era un film da sedersi per terra. Esatto, volevo dirti questo è volevo proprio dirti questo, poi seduti per terra in quegli anni lì, ciao. Ma era bello, condivideva, era una condivisione totale, secondo me era bellissimo, al di là di tutto era bellissimo, c'era proprio un'unione totale a vedere Easy Rider, come tante altre cose, chiaramente. Certo. Bene, Maurizio, facciamo suonare la chitarra. Facciamo suonare Nicola. La chitarra a Nicola, un altro pezzo. Nicola. Voce... Adesso ci dai il titolo però del pezzo, Nico. Questo pezzo si intitola Formula d'amore. Mm. Ok. Tratto sempre dall'album Nicola Battisti. Perfetto. Pesa la gravità, non l'effetto che ci dà. È una legge fisica, non si può cambiare, lei resterà. Pensa alla società, a complicata realtà. Diceva Louis che l'amore deve essere comprensione. Se l'amore si comprende, poi è più facile, perché la vita è già difficile. Aiutiamoci, perché se amiamo meglio è tutto più facile. Sarà, sarà, sì, poi sarà. Così ho deciso di lasciare partire il mio amore. Non ero felice, ma la condizione è comprendere l'amore. E ora ho capito e canto e dico che se si fa questo in coro non c'è più bisogno di litigare. Amare è capire e stare bene. Se l'amore è più facile, è come la gravità, legge fisica. Aiutiamoci, perché se amiamo meglio è tutto più facile. Sarà, sarà, sì, poi sarà. Radio Veneto. SMS 346 2320 033. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blue Time. 21 e 47 minuti fino con Nicola Battisti fino alle ore 22:30, naturalmente con la compagnia del mitico Maurizio Calzavara e la regia del sottoscritto Gil Facchinelli. Maurizio, questa canzone? Eccolo qua. Sì. Io ho scritto nelle mie piccole note, piccoline, che l'inizio mi ricordava così lontanamente l'inizio di Grease. Sì. Sì, sì, sì, leggermente sì. L'inizio di Grease. Sì. È una cosa che stasera chiaramente Nicola non può, non c'è la batteria, quindi lui ha giocato la chitarra come fosse la batteria, molto percussiva a mio parere. Sì, sì, assolutamente. Sì, Grease dentro di me. C'è poco Grease, no, perché abbia abbia preso Grease. Cioè, quell'alone che c'è parte poco. Da Grease. Io sono la musica che ho ascoltato, che ho vissuto, e quindi questo anche... muoversi, questo sì. Ritmo Grease che dava il movimento, esattamente, anni 50, anni 60. Sì. E quello, tu hai il DNA di quella. E c'è un motivo, e lui le ha spiegato mentre eravamo al microfono chiusi. Tua madre aveva le cassette e ti faceva ascoltare anche queste. Sì. Sì, appunto, come ti dicevo prima, io sono la musica che ho ascoltato, che ho vissuto, e quindi sono la musica, sono tua mamma le cassettine, sì, che si ascoltavano in macchina andando il sabato e domenica pomeriggio in giro per le Dolomiti, piuttosto che in al montagna, lago, chiaramente. Piuttosto che al lago, si mettevano queste cassettine, e io dietro, insomma, le ho vissute e sono entrate dentro di me. Ma c'è mica niente di male, assolutamente, per me lì c'è questa energia, c'è questo movimento, c'è questo ballo, cioè, come appunto l'energia di questo pezzo, insomma, Formula, sì, d'amore, esattamente, questo è proprio quello, è sempre l'amore al centro dell'universo della tua scrittura. Beh, vero Gil? Sì, sicuramente sì. Volevo chiederti anche una cosa, Nicola, tanto girovagare per il mondo, però poi alla fine un album interamente italiano, nonostante questo, sì, girare per l'estero. Una scelta, diciamo che questa è la mia lingua, io parlo bene francese, inglese, parlicchio spagnolo, ma ho scritto anche in inglese, in francese, ma la nostra, cioè la nostra lingua, la lingua madre, è la lingua con la quale possiamo esprimerci, e è talmente quasi impercettibile, secondo me, ma l'espressione anche delle singole parole hanno un carico dietro poi di significati, quindi c'è poco da fare. Io sono italiano, canto in italiano, cioè parlo in italiano, e quindi scrivo in italiano e canto in italiano, piango in italiano, eccetera, rido in italiano, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, riprendendo un po' quello che diceva anche Maurizio prima, c'è molta voglia di esternazione in te o c'è molta comunicazione? Beh, c'è il bisogno di me di comunicare. C'è un bisogno sfrenato di comunicare, e questo è il mio canale, quindi ho questa dote della voce, e quindi il bisogno aguzza l'ingegno, e di conseguenza il mio bisogno è comunicare. Quindi la musica è una forza, una grandissima forza. Sì. Tu che hai scritto in inglese qualche volta, ma adesso scrivi in italiano, si dice continuamente, probabilmente è giusto, ma questo tu non me lo puoi confermare, che scrivere in inglese è più facile musicalmente, certo, è più semplice. Certo, assolutamente, perché ma a livello grammatico poi a livello grammatico, sì. A livello grammatico, con una allora in inglese anche le relazioni sono più semplici, si parla a una terza persona che non si conosce e gli si dà del tu, e questo cambia tutto, perché le lingue fanno le culture, e fanno la gente, fanno le persone. E il nostro paese è un paese molto vecchio, e di conseguenza ci sono dei passaggi che ci impongono di avere certe distanze, e certe distanze, insomma, sono dovute alla lingua. Alla lingua. Di conseguenza, sì, scrivere in inglese è molto più semplice, proprio molto più internazionale. Molto più internazionale, poi anche a livello di comprensione, certo, e di vendite o di produzioni, per carità. Mentre l'italiano, scrivere in italiano c'ha un peso, con una parola, appunto, ci sono molte più, anche essendo io italiano, potrei appunto descrivere un'emozione con una parola difficile, complessa, che dà proprio la sensazione di quell'emozione, però appunto dirla in inglese no, può essere in inglese pesante, quella è basta. Invece quella sì, è sad, basta, esatto, sad. Quello è e lo puoi dire in maniera diversa, però resta una parola, e l'intonazione può essere diversa, esatto, quindi però il contenuto è più facile, più leggero, quindi è più anche metricamente, eccetera, eccetera, molto, certo, più semplice. Certo. C'è una crescita della musica d'autore, secondo te, Nicola? O meglio, è così difficile parlare al cuore della gente? No, assolutamente. Cioè, basta chiudere gli occhi e aprire il cuore. Non siamo per niente stupidi. È una cosa che si sente tangibile. È una magia, un'alchimia, quella della comunicazione, quella delle persone. Quindi credo che sia difficile farlo ad oggigiorno, ma forse proprio oggigiorno, perché siamo arrivati al momento storico in cui siamo arrivati, forse sì, bisogna chiudere ogni pensiero e aprire il cuore. Questo è il mio consiglio che do. Quindi abbiamo bisogno, alla prima domanda che ti ho fatto, una certa crescita, abbiamo perso forse un qualcosina. Sì, no? Certo, c'è stato un buco in questi anni, sì, insomma, io sono convintissimo che il futuro sarà diverso anche a livello musicale italiano, ma non lo dico solo io, lo dicono anche i dati, insomma, certo, quello certo che la gente va a guardare, c'è un utilizzo sfrenato oggi come oggi di canali come YouTube, questi canali sono canali aperti, ti danno la possibilità di sentire live e musica dall'altra parte del mondo, di arricchirti, di ispirarti, di invogliarti, quindi credo che poi tutto questo si riverserà anche con la musica liquida, però anche nel panorama musicale italiano. Anche se qui, no, Maurizio, hanno transitato veramente nel sottobosco musicale, moltissimi. Abbiamo un esempio anche recente, gli EQ, esattamente, che abbiamo avuto qui e che abbiamo detto sono bravissimi, avevano qualcosa da raccontare e hanno vinto il premio. Il Tenco, mi sembra, sì, esattamente. Il Tenco mi sembra che sia, mi pare, no? Di sì. Veramente bravo. A proposito di musica, dobbiamo ricordare e ringraziare il nostro direttore artistico, che è Alberto Prisco, che stasera, grazie ad Alberto, che è proprio grazie da Pescato, sì, stasera sei qua, e quindi grazie anche a lui che sì, cura sì, tutti sì i nostri live praticamente. Sì, musicalmente Nicola si dà da fare, si costruisce, perché cantare in italiano è difficile, è complesso, però è la nostra lingua. E quando eri in Inghilterra o a Parigi, cantavi in italiano o cantavi in inglese? cantavo sempre in italiano, però poi vivendo delle relazioni con delle ragazze straniere dovevi parlare in inglese, cari amici. Dovevo parlare in inglese. E di conseguenza fu così che da una lettera scritta in inglese dalla mia ragazza dell'epoca. Da una lettera nasce una canzone. È bello, da una lettera di solito nasce sempre una canzone, quasi sempre, o no? Per uno che fa il musicista. Beh, diciamo che ci deve essere, la lettera deve essere fatta col cuore, con l'amore. Poi agli occhi di, insomma, ai miei occhi era la cosa più ovvia da fare. Presentarsi la sera cantandogli la lettera che mi aveva scritto a me in inglese. In inglese, perché era scritta in inglese. Certo, certo. Quindi sì, assolutamente. Ok. Maurizio, passiamo alla musica. Sì, sì, sì, assolutamente. E poi una domanda da fare quando ritorniamo in studio sulla musica un po' in generale. Ok, ok. Allora, ci ascoltiamo sempre dal suo ultimo... ultimo, non possiamo dire, possiamo dire ultimo? Il no, primo, il primo, primo di tanti. Primo. Primo lavoro di Nicola Battisti. Ci ascoltiamo, Dottore. Ho bisogno di un dottore, per favore. Portatemelo qui, vi prego fate presto. Ho bisogno di tornare a sorridere di più. Ho voglia di sentirmi bello e vedere bello il mondo. Bello il mondo. Perché? Sa da fare, non farà un po' morire, perché ragazzi, il singolo momento che sommato poi nel tempo una vita da. Ho bisogno di un dottore per curare male dello stare male. Io ho e la vita sa da fare e non fare un po' morire, perché grazie al singolo momento che sommato poi nel tempo una vita da. Ho bisogno di un dottore per curare il male dello stare male. Radio Veneto. SMS 346 2320 033. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Dimmi, Nicola, cosa provi a parlare con Maurizio anche a microfoni spenti? Molto piacevole. È molto piacevole, è un uomo di mondo, è un uomo apertissimo, con una cultura musicale grande. È un piacere parlare così. Sì. Non esistono argomenti, ci può dire tutto, dire niente. Sì, sì. Ma parlavamo del discorso della estrazione di questo pezzo, che è un bel pezzo, molto divertente. Però, giustamente, io ho citato i Plates, ma giustamente Nicola mi diceva un po' prima dei Plates, quindi 30-40. I Plates sono leggermente venuti dopo, prima ancora. Le voci nere, molto nere. Sì, è sì, quello sì. Il, quello la tua matrice, le voci mi nere. Fa impazzire, sì. Sì, sì. Infatti è un sogno quello di avere un coro gospel o comunque di tre o quattro voci di quel tipo. Sarebbe una goduria. È sempre a cappella, cari ascoltatori, a cappella. Sarebbe poi una goduria. Poi arrivano gli strumenti, ma a cappella è il tuo massimo. Mamma, sì, ma a cappella con più voci. Con più voci, ma non solo, perché un bel contrabbasso che mi fa questi stacchetti. Mm. Quindi swing, un po' di swing anche. Anche, sì. Ci starebbe bene. Sì. Vediamo. Continuerò ad andare avanti anch'io, come si diceva. Non posso fermarmi. Il mondo è grandissimo. Bisogna sperimentare. Bisogna sempre andare avanti. Il tuo omonimo, Lucio Battisti, ha sempre sperimentato dall'inizio della carriera. Mm. Sempre, fino alla fine dei suoi giorni, purtroppo. È morto troppo giovane. Sa quante cose aveva ancora da dare, da far sentire. Ha sempre sperimentato, è sempre andato avanti. E bisogna sempre cercare di sperimentare, di creare, di trovare qualcosa di diverso. Secondo me. Perché è bello arrivare al successo, ma poi rimane, il successo è difficile mantenere, sono d'accordo. L'hanno sempre detto tutti quanti. Però bisogna anche tentare di cambiare qualche volta. Bisogna essere veramente angry and foolish, come diceva Steve Jobs. Ma certo, totalmente, quella è la chiave del non morire mai, dell'essere sempre nuovi, se stessi, e ricercare sempre, perché c'è il bisogno, deve esserci bisogno, poi la base. È il discorso che facevi tu prima, qualche secondo fa, che la prima opera è sempre difficile andare avanti poi con le seconde. Certo. È proprio per questo motivo qua, perché poi ci si incontra. Il primo è un bisogno che si ha, poi bisogna continuare avanti, andare avanti col bisogno. Allora bisogna veramente quasi staccarsi dal fatto di essere musicisti o professionisti e continuare a sentire la musica dentro e viverla. Questa è una cosa molto difficile da fare. Cile aveva tirato fuori una cosa interessante prima, aveva parlato dell'essere musicista, di incidere un disco. Cari ascoltatori, incidere un disco non è mica una cosa semplice, è una forza incredibile incidere un disco. Avere un disco tuo vuol dire una cosa meravigliosa, secondo me, per un musicista è il massimo. È una magia incredibile. Per me adesso è cambiato il mondo della musica, cioè l'ascoltare un pezzo dopo che si è fatto un disco, insomma, è un'esperienza un po' diversa, perché si sa, cioè proprio a tatto. Adesso il disco si può fare in casa, si può sentire. Sì, sì, ma dico, quando ascolto i pezzi, quando ascolto i pezzi, a parte i miei. Cavolo. Sono tutti i tuoi pezzi che fai sentire gli altri. Ti doni agli altri nei tuoi pezzi, vero? Sì, è la cosa fondamentale. Il cantautore è così, deve essere così. Deve far trasparire gli altri quello che è lui. Quello è il vero cantautore. Il cantautore è per questo cantautore, secondo me. Entriamo sempre nella cosa di sempre, cioè che la musica alla fine è emozione. Certo, e la cosa principale è dare emozione agli altri. Esattamente. È totale. Quello è proprio la corda che è più importante di tutto. Nasce il bisogno, l'emozione, la vibrazione che si ha da dentro, dall'emozione, dal pensiero, che poi deve essere, trova una, in qualche maniera, una strada. E siamo in questo mondo, sì. Sì, diventa anche un lavoro, siamo d'accordo con tutti. Però un musicista dà sempre qualcosa, anche se è un lavoro, dà sempre qualcosa sul palco, a mio parere, sempre. Sì, non è semplice, è difficile. Non è facile perché poi appunto anche i pezzi, per me personalmente, essendo pezzi nati dalla mia storia, dalla mia vita, c'è un momento dove li canto proprio con tutto me stesso, con ogni millimetro del mio corpo. E poi, come nella vita, le cose passano. Certo. E i pensieri che facevamo una volta non li facciamo più, la stessa cosa le canzoni, e quindi avanti. E quindi sì. Però sì, è sempre un'emozione, dai, come ha detto Gil, deve essere un'emozione, quando è sul palco, ma la magia è anche paura. Ma come dicevi tu prima, che ho cambiato la maniera di suonare il pezzo, ma io continuerò sempre a suonare, io il Luce Calore lo farò sempre, e la cambierò forse ogni volta che la suonerò, per certi aspetti, perché a seconda di come la senti in quel momento la puoi esprimere e fare. Ecco, cosa sentiamo visto in questo momento allora? Adesso vi faccio semplicemente un pezzo, è stato dall'album Nicola Battisti. A voi. Oh, ok, prego. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do sen semplicemente ho perso la mia mente e non so più cosa fare, né dire né pensare, quindi immobile me ne sto, fermo ad aspettare che maturino le nespole. Mamma diceva, ascolta il cuore, lui ti saprà dire. Mamma ragione, ma com'è difficile. Troppo difficile. Semplicemente, quando il cuore è sofferente è un gran casino. Mi ci vorrebbe l'indovino, mamma, io non so che fare. La vita è dura per chi ascolta il cuore. Ed è difficile spogliarsi e ridere senza paura di bruciare o congelare. Mamma diceva di stare nudi per poter fare l'amore. Mamma ha ragione, ma perché è così difficile? È proprio difficile. Proprio difficile. SMS 346 23 20 033. Blue time. Blue time. Blue time. Rieccoci in diretta per questi ultimi 20 minuti circa con Nicola Battisti per presentare il suo primo lavoro in assoluto, che porta il suo stesso nome e cognome, Nicola Battisti. Maurizio. Beh, semplicemente, questo non so se sei d'accordo Nicola, forse questo è il pezzo più italiano del disco, a mio parere, più ancorato agli anni 60. Sì, sono d'accordo. A mio parere, sempre a mio parere, più italiano rispetto agli altri, sono con altre diramazioni. Questo è molto italiano, sono, ma italiano d'accordo, nel senso positivo, non negativo. Anni 60, sì, sicuramente anni 60, però non così pedissequamente legato agli anni 60. Gli anni 60 sono solo uno stimolo, un input che poi sviluppi chiaramente nel 2013, in questo momento, anche se l'album non è uscito un pochettino prima. Sono, diciamo che sì, le sonorità poi inevitabilmente, poi anche con i suoni andando quasi a ritroso per l'evoluzione, quasi. Sì. Però è una ballata, è una pop song questa qua, diciamola, sì, pure. Totalmente, sì. Totalmente sì. Un pop song. E sempre con l'amore protagonista, però è ancorata, ripeto, agli anni 60, però va per la sua strada, è solo ancorata, è solo un input, è solo un momento. Sì, la chitarra un po' ricorda, può ricordare parecchi pezzi, se vuoi, questo, sì, pam, questo pam, giro, pam, pam, esattamente. Pam, pam, pam, pam, pam. Sì, qua ci vorrebbe il basso che non c'è stasera, cavoli, quello cavoli, non c'è, cavoli, vabbè, cercando con la Gibson di fare un basso stasera, prossimamente, Nicola, prossimamente, ciao, su questo schermo, vabbè. Sì, diciamo che sì, è un pezzo... perché l'hai inserito nella... Moderno, se vogliamo. Dimmi. Perché secondo me... il testo è molto, molto, non so se forse, non so se dico una cavolata dicendo che forse negli anni 60 un testo così sarebbe stato impossibile. No, sì. Ma se vogliamo, c'è questa cosa qua, dove io semplicemente racconto di queste cose, sono cose totalmente accadute a me, il fatto di trovarmi in difficoltà perché seguivo l'amore quando ero a Palma de Mallorca, la mia ragazza francese all'epoca, venivamo da Londra, vabbè, la storia è un po' complicata. Diciamo che c'è stata questa scena all'aeroporto, al porto di Palma, dove io chiamo mia madre e le dico: mamma, adesso Clemence vuole andare via, ma cosa devo fare? Io avevo 22 anni, ma cosa devo fare? Devo stare con gli amici, andare con lei? Nicola, non so, ma che domande mi fai? Mi fa: amore, tu lo sai cosa devi fare, io non ti posso dire niente, se tu che lo sai. E niente, quindi mamma diceva di stare nudi per poter fare l'amore, questa è un'altra cosa, sì, che lei che insomma mi ha sempre trasmesso, insomma. E la verità, sempre alla ricerca della verità, bisogna cercare di essere veri con se stessi, per essere con gli altri, per condividere al massimo quello che c'è dentro di noi. Cioè, in questo disco, come giustamente diceva Gil prima, ti sei messo davanti alla berlina nel senso positivo, sei mostrato a chi sei praticamente. Sì, anche in questo momento è se stesso. Anche in questo momento, esattamente. Ha spiegato delle cose che ha rotto quell'incantesimo dovuto alla sua privacy, però... Ma non è una cosa negativa, è una cosa positiva. Sì, sì. Hai avuto il coraggio di dirlo al microfono? No, ma io dico tutto. Esattamente. Cioè, fermatemi più che altro, perché poi... No, ma è una cosa... Cioè, un po' dipende dal carattere della gente, però sei aperto. Sì, sì. E questo è una tua caratteristica. È il mio bisogno, sì. È il tuo bisogno, hai detto una cosa giusta, è il tuo bisogno. Sì. E questo è un disco, è un bisogno. Esattamente, esattamente. Che grazie a Mario trova lo spazio di essere con la collaborazione dei fratelli Podighe. Di che essere... cosa hanno dato i fratelli Podighe? Beh, hanno dato tantissimo, perché i fratelli Podighe sono, Carlo in particolare, un amante di Lucio Battisti, di Dalla, battistiano loro, di Dalla, sì, il cantautore italiano, sì, assolutamente, il stadio, diciamo che loro hanno suonato gli strumenti che io non riesco a suonare, la batteria, i bassi è stato fatto anche grazie a Carmelo Leotta, e niente, quindi loro hanno arrangiato i pezzi sulle mie basi, sui miei demo, voce, chitarra, arrangiati in qualche maniera a casa mia con le voci, con altre chitarrine, diciamo abbiamo fatto un lavoro in studio grazie a loro, importante. Quindi l'etichetta, come si chiama l'etichetta? Cabezón Records, praticamente. La spagnola, sì. Cabezón, testa, testona, vuol dire testa grossa. Sì. E... chi l'ha prodotto? Avete autoprodotto il disco o l'hanno prodotto loro? No, l'abbiamo una coproduzione. Coproduzione, sì. Perché adesso bisogna far così. Assolutamente sì, i costi possono essere grandissimi, però si può dividere. Per arrivare a un obiettivo, sì, quello di far musica, di vivere un'esistenza, insomma. Quindi ancora lì, come dicevamo prima. Certo. Allora, c'è un post per te, Nicola. Grandi, ciao Nicola, ti sto ascoltando. Un saluto a tutti. Firmato Daniele Antonello, Parlo Piano. Grandissimo, ringrazio e saluto. Sì. È un altro grande cantautore di Verona, anche lui. Sì. A proposito di cantautori, forse tu Gino non lo sai, ma io ho letto una cosa molto bella, una domanda che gli hanno fatto: qual è il tuo disco di riferimento? E lui mi dice, Nicola ha detto, io quando ero a Londra ho preso un appartamento e qualche amico, gli amici precedenti hanno lasciato una pila di dischi, erano canadesi sti ragazzi, e sopra la pila c'era Jeff Buckley. Grace, non c'era solo Grace, ma c'era Grace quello... che iniziava la pila di allora, dischi. Allora, tu devi immaginarti che all'epoca io giravo. Molto bella, cari ascoltatori, dovete sentire la storia. Allora, io giravo a Londra dei tempi di percorrenza per andare a lavorare. Io prendevo due metropolitane e due autobus. Cosa facevi a Londra? Cameriere. Cioè, adesso dico una cosa a tutto il mondo, a tutti gli italiani. Cioè, signori miei, in giro per il mondo non c'è nient'altro che ristoranti italiani gestiti da portoghesi, italiani, spagnoli, e comunque l'essere italiano ha il suo perché, paga. Prendete un aereo, andate in qualsiasi parte del mondo, se anche non siete capaci di fare i camerieri, infilatevi dentro un ristorante, vi daranno da lavorare subito e nel giro di qualche tempo imparerete la lingua. Cioè, ci vuole veramente poco. Comunque. Andiamo avanti. Scusami. Sì, avevi trovato l'appartamento di questi ragazzi canadesi? Sì, avevo trovato l'appartamento di questi ragazzi canadesi. Io ci mettevo 2 ore e mezza per andare a lavorare, più o meno, 2 ore e mezza. E niente, giravo con il Walkman per i CD, ancora il CD player, tra la cintura e la maglietta, proprio perché poi immaginate questa grandezza di questo CD. E non sapevo chi fosse quella pila di dischi che avevano lasciato. Questa pila di dischi. Un giorno ne presi 4-5 in mano. E adesso diciamo i nomi che hai trovato, perché mica nomi da niente. Va. Nick Drake. Nick Drake non è un nome da niente. The Smiths, ecco, cioè, appunto. Jeff Buckley, per l'appunto. Erano molto acculturizzati, senso positivo. Diciamo che ragazzi erano sì, sapevano ascoltare musica, sapevano godersela come si deve, bersi le birrette, ascoltando della buona musica. Vabbè. Come si deve. Diciamo che sì, io ho preso in mano questi dischi e cominciai ad ascoltare. Dicevo, non, guarda, è una sensazione molto strana, perché poi se non sai niente dell'artista vieni preso proprio da dentro. Esatto, è quando vero. Poi ti rendi conto che anche per il mondo è quella persona lì è Dio praticamente, allora lì dopo ti senti anche tu parte del mondo, ti senti anche, insomma, è un valore aggiunto grande, però ecco, vanno scoperte le cose anche così, anche senza sapere che cosa si ascolta, con la voglia di ascoltare. Mi ricordo canzoni come appunto Alleluia, vabbè, che poi è una storia un po' particolare quel pezzo lì, però Lover Should I Come Over, Grace, ma sì, perché ragazzi, tu hai detto una cosa giusta: se uno non conosceva Jeff Buckley, non aveva letto niente di lui, ma l'ha sentito la prima volta e gli è entrato subito, vuol dire che ha dato un messaggio incredibile. Ma non può, quando lo so, ma quando poi la, quando la poi grandezza di questo personaggio. A volte mi capita di fare ascoltare Buckley, di far vedere video di cose che fa lui live, e la gente resta scioccata. Certo, perché questa, era incredibile. Ancora una volta, per l'espressione. Sì, certo. Cioè, ma questo cosa faceva? Ma tale padre, tale figlio. Suo padre si chiamava Tim Hardy, un altro grandissimo. Priami, si chiamava. Tim Buckley, pardon. Sì. Tim Hardy era un altro cantautore. Sì. Lui è stato il figlio. Jeff è stato il figlio, tra virgolette, quasi maledetto. Insomma, sì, un però po', che un padre po'... aveva un altro. Un'altra relazione. Un altro modo di fare musica, però. Sì. Ma geniale. Poi ha avuto anche un'altra relazione, sì, è stato insomma di casino. Al di là del gossip, era musicalmente era diverso. Però era un genio. Era un genio. E l'ha lasciato il DNA. Tim Buckley l'ha lasciato il DNA al totalmente. Suo figlio. Chissà cosa. Cioè, quella è una cosa che proprio dici, mamma. Quindi, se fosse ancora vivo, Jeff quindi, Buckley. Cari ascoltatori, Nicola si è proprio aperto musicalmente ascoltando Jeff Buckley. È una cosa mica da poco. Ti devo dire. Assolutamente. Ecco, io volevo appunto chiedere a Nicola tre artisti del passato e presenti internazionali, ma penso che ha citato solo Jeff Buckley. Adesso allora ne facciamo due. Altri due. Dai. Beh, una persona che mi toglie l'anima ogni volta che l'ascolto ascolta Nick Drake. Nick Drake mi leva l'anima. Non riesco a spiegare cosa passi, però è una maniera di fare musica anche molto particolare. Perché molto difficile, è un grande chitarrista. Cioè gli accordi di chitarra Nick Drake sono molto difficili. Tutti inventati, ma diciamo che anch'io un po' questa cosa. Non sono un grandissimo chitarrista, gli accordi li invento. L'invento, lui proprio invece era uno studioso, sì, e lui gli accordi li inventava, se li inventava sulla tecnica, certo, quindi certo. Poi drop down di accordi e cose. Diciamo che io appunto sì, cantante che amo, perché poi se vogliamo scostarci dai cantautori. Una terza scelta, dai. Freddie Mercury, signore. Freddie Mercury, Queen. Allora. Mi viene da piangere se ci penso, se penso alla sua voce, alla sua forza. È la sua forza, sua la sua forza. Forza oltre alla presenza scenica, la sua forza incredibile. Forza incredibile, sì. Anche che continuò fino alla fine, sì, perché fino all'ultimo poi secondo. Insomma, quindi diciamo che poi non posso dire, perché farei torto senz'altro a qualche grandissimo cantautore, e farei torto a me stesso perché li amo, insomma. Eccoli qua. Sono in sottofondo. Adesso cosa facciamo, caro G? Qua me lo devi concedere. Sai che qua parliamo di musica italiana. Sì. E concedimi però, sai anche la passione che ho verso la musica di casa nostra, velocemente tre artisti italiani che ti conquistano. Che mi conquistano? Beh, non posso non citare in primis Lucio Battisti, con una carica totale, grandissima. Carmen Consoli è una cantante che mi ha, anche lei per certi aspetti, insegnato, non mi sono insomma, mi ha ispirato parecchio. È un po', è una cosa un po' difficile, Carmen Consoli. Cosa, cosa ti dà? La sua voce, la sua maniera di suonare, le sue atmosfere che crea con gli strumenti, con la voce, l'intensità comunque che ha, la verità che trasuda, insomma, mi è sempre piaciuta tantissimo. E il terzo, mi coglie un po' impreparato perché non ascolto tantissima musica italiana. Beh, non posso dirti senz'altro la musica di De André. Immaginate, non manca mai, Maurizio. Quello è un problema, signori, sono i poeti, sono i poeti. Sono i poeti, giustamente. Sono i poeti consacrati, cioè... Sono i poeti. Allora, adesso abbiamo circa 10 minuti scarsi. Cosa suoniamo, Nicola? Facciamo Fortunato da morire. Fortunato da morire. Ok. Puoi partire anche subito, Nicola. Un attimo solo, allora. Mette il ponte, che mi sistemi. Ecco, esattamente. Nel frattempo vi ricordo sempre che siete sintonizzati con noi, Blu Radio Veneto, Gilles Facchinelli alla regia e Maurizio Calzavara a condurre questo programma, e gli ultimi minuti ancora, purtroppo. Il tempo corre sempre velocissimo, tantissime cose da dire, da raccontarci, comunque sempre rimane sempre una parentesi piacevole, con Nicola Battisti. Se chiudo gli occhi ricordo ogni particolare e segno che il tempo non riesce a cancellare. Mi sento fortunato per aver incontrato te. Se apro gli occhi ti vedo, sei tutto attorno a me, sei dentro il colore del cielo, appunto attorno a me. Mi sento fortunato per averti avuto. Ti ringrazio poiché hai vissuto con me. Ancora più precisamente, grazie per tutto ciò che hai fatto insieme a me. E col passare del tempo che capisco perché. Grazie per tutto ciò che sei, semplicemente tutto quello che fondo volevo dire, che mi sento fortunato ad aver incontrato te. Quando ti penso sembra che lo fai anche tu, su ogni cosa che vedo, per ogni cosa che credo, sento che ci sei anche tu, io mi sento fortunato. Io mi sento fortunato perché ho incontrato te. Ancora più precisamente, grazie per tutto ciò che hai fatto insieme a me. E col passare del tempo che capisco perché. Grazie per tutto ciò che sei, semplicemente tutto quello che in fondo volevo dire. Mi sento fortunato da morire, da morire, da morire. SMS 346 2320 033. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Nicola, hai già preparato delle nuove canzoni o è troppo presto ancora? Ne ho da buttar via di canzoni, ne ho da buttar via e continuo a scrivere. Ho già parecchi album pronti, diciamo, serve un po' di tempo perché poi non è così semplice lavorare, eccetera, eccetera, eccetera. Capesa non sarà contento allora? Sì, lo è, ci voglio credere. E ricordiamo il tuo sito, Nicola. Beh, www.nicolabattisti.com. Se uno vuole fisicamente il tuo disco, come fa? Beh, attraverso il sito, poi nelle news può cercare Cabezon Records o comunque attraverso cabezonrecords.com, ancora una volta www.cabezonrecords.com. Sono varie sezioni dove si può ordinare il disco fisicamente, se no tramite iTunes, Spotify, tutti Amazon, tutti i negozi digitali, virtuali. Chiaramente. Ci sta anche questo. E se no, venendo ai miei live, fisicamente. Ne ricordiamo qualcuno? Se ne Ma attualmente no, attualmente purtroppo non ne ho. Momento un po' così. Ci saranno. Da settembre in poi sì, stiamo lavorando. Sì. Benissimo. Qualche secondo, se ci tieni, a ringraziare qualcuno in particolar modo. Facciamo finta sia una copertina, sai che si fanno un po' i ringraziamenti. Beh, guarda. Se ci tieni, altrimenti non mi ringraziare perché farei l'ringraziamento più banale di tutti. Però no, ci tengo a ringraziare per l'appunto Mario Valenari. È una grandissima persona, una persona che amo e che ha permesso tutto questo. E tutto il resto viene dopo, perché se non ci fosse stato lui quella sera in quel locale a vedermi, che adesso mi sfugge il nome, vabbè, poco importa, se non ci fosse stato lui nel 2007, non sarebbe partito niente. Quindi, è cominciato tutto da là. Grazie Mario. Tra l'altro so che hai anche tra i tanti un estimatore, un collega che è Ruben. Scusi, non ho sentito. Ruben. Ruben, diciamo che quello è un altro personaggio che devo assolutamente ringraziare, perché Mario è intervenuto prepotentemente fisicamente con me, ma se ho girato gran parte dei locali di Verona è stato grazie a lui che mi ha concesso questa possibilità. E sì, spero un giorno di poter svelare alcune cose, però lui, anche un po' di merito va anche a lui, devo essere onesto. Bene, grazie Ruben, lo salutiamo, è venuto più di una volta qua. Bene, Nicola, abbiamo finito. Con cosa finiamo? Finiamo con Il tempo è passato, una canzone che a tanti piace, quindi la dedico, questa la dedico a tutti i miei fan. Bene, salutiamo adesso? Sì. Allora, Nicola, un grandissimo abbraccio da tutti gli amici di Blu Radio Veneto, da parte mia ovviamente, da Maurizio, da Alberto Prisco. Sì, certo. Grande, grazie mille. E poi da tutto il team di Blu Radio Veneto, naturalmente. Grazie di essere stato qui con noi. A voi. Un buon proseguimento veramente di cuore per tutto. grazie mille. Tra qualche minuto Rockwave con Stefano Dainese, già pronto. Bye bye. Ciao, buonanotte a tutti. Il tempo è passato, tu dimmi qual è il risultato. Abbandonare significa un po' morire, ma lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Il tuo ricordo continuo a ricordare, visto il risultato, adesso sono un po' arrabbiato. Ma la rabbia tu sai cosa è, amore, amore per te, che fa soffrire e che non lascia pace. Vorrei vivere con te mi sembra semplice, anche perché non riesco più a fermare il tuo ricordo. Continua a ricordare, non importa niente, soluzione più non c'è. L'amore che fa morire, perciò non resta che vivere restando alla finestra, aspettando te. Il tempo è passato, lasciando quello che è sopravvissuto, e sono io che ti canto una canzone d'amore, con il cuore infranto di dolore nel capire che anche l'amore può morire. Vorrei vivere con te, mi sembra semplice, anche perché non riesco più a fermare il tuo ricordo. Continua a ricordare, non importa niente, soluzione più non c'è. L'amore che fa morire, perciò non resta che vivere restando alla finestra aspettando te. Soluzione più non c'è, è l'amore che fa morire, perciò non resta che vivere restando alla finestra aspettando te, aspettando te.